Seconda stella a destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese e Giancarlo Ricci. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere, poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Sentire le note di Rhapsody in Blue di George Gershwin e pensare a New York è inevitabile. Colpa di Woody Allen che con il suo Manhattan ha creato questo collegamento immediato e automatico. Manhattan, il regno dei grattacieli, dei locali di tendenza, della moda, quell'isola tra il fiume Hudson e l'East River che conta meno di 2 milioni di abitanti, ma le sue strade, i suoi scorci, i suoi colori sono noti e amati in tutto il mondo. Manhattan è anche il regno della nostra amica immaginaria di oggi, un'amica diversa dagli altri personaggi incontrati nelle puntate di questa trasmissione. Non è un'amicizia infatti che arriva da così lontano nel tempo, non l'abbiamo incontrata da piccoli, non abbiamo appeso il suo poster in cameretta. È un'amicizia per molti di noi adulta, consapevole. Un'amica di tante donne nel mondo da che è apparsa in TV, ma di tre di loro in particolare. Una donna che vive e lavora a New York, che guarda il mondo e la vita da una finestra di una bella casa nel West Village e che insegue l'amore. Insegue Mr. Big. E pensai una cosa. Ok, non ero riuscita a domare Big, ma il vero problema era che lui non era riuscito a domare me. Forse certe donne non sono fatte per essere domate. Forse hanno bisogno di restare libere. Finché non trovano qualcuno altrettanto selvaggio con cui correre. Carrie Bradshaw, protagonista e voce narrante della serie TV Sex and the City, la bionda giornalista al centro delle vicende amorose, trasgressive, modaiole del gruppo di amiche più famoso della TV recente, a riflettere sulla vita, sui sentimenti, sul sesso e ovviamente sugli uomini tra un brunch e l'altro con Miranda, Charlotte e Samantha. Incredibile, un uomo che non vuole sposarsi, sai che novità. Non dirmi che sei rimasta sorpresa. Gli uomini che vogliono sposarsi sono quelli a cui manca la mamma. Forse non erano il mio genere. Per me questa storia potrebbe rivelarsi un fiasco. Metti che state insieme 5 anni e poi vi lasciate. A te che resta in mano? Neanche ci pensavo a sposarmi, ma da quando mi ha detto che non vuole farlo, ora non penso ad altro. Carrie Bradshaw, con il volto di Sarah Jessica Parker, protagonista di una serie TV Sex and the City, nome della rubrica che Carrie scrive su una rivista, durata 6 stagioni, dal 1998 al 2004. Amata all'inverosimile da milioni di donne e anche di uomini. Carrie e le sue scarpe, Carrie e i suoi riccioli, i suoi outfit alla moda, Carrie e la sua città, Carrie e le sue amiche. Tu non sei sola. No, lo so che ho voi ragazze, ma... E davvero mi odio un po' per quello che sto per dire, ma mi sento veramente triste per non avere un uomo nella mia vita che si preoccupi per me. Nessun uomo speciale che mi auguri buon compleanno. Nessuna maledetta anima gemella. E non so se credere all'anima gemella. Non ridete, ma forse siamo noi le anime gemelle l'una dell'altra. E lasciamo che gli uomini siano solo quegli straordinari ragazzi carini con i quali divertirsi. Beh, non male come programma. Caroline Mary Bradshaw, detta Carrie, poi sposata Preston, è il personaggio principale, oltre che la voce narrante, della serie e prima del romanzo di Candace Bushnell, che le ha dato un nome con le stesse iniziali del suo. Tiene una rubrica, Sex and the City appunto, sul New York Star, poi pubblicherà un libro e scriverà per Vogue. Scrive da casa, un appartamento in affitto nel West Village e ha molto tempo libero per frequentare locali alla moda e soprattutto per fare shopping. La sua passione? Le scarpe, in particolare quelle di Manolo Blahnik, in cui investe un patrimonio. Sempre alla ricerca dell'amore totale, lo troverà in Mr. Big, ma prima di farlo convolare a nozze, passeranno in tanti fra le sue braccia. Aiden, che costruisce mobili, lo scrittore Berger, lasciato con un post-it, e l'artista russo Alexander Petrovsky, che la porterà fino a Parigi. Perdonate il brusco cambio di colonna sonora, ma la prima volta che il pubblico italiano ha visto Sarah Jessica Parker, nata in Ohio nel 1965, alta appena 1,60 m, era il 1984. Il film era Footloose. Fin da bambina studia canto e ballo e quando viene selezionata per un musical a Broadway, tutta la famiglia, a 7 fratelli, si trasferisce nel New Jersey. Dopo arrivano TV e ancora cinema per Sarah Jessica, da Voglia di ballare a Pazzi a Beverly Hills, Ed Wood, Il club delle prime mogli. Tutto compreso il fatto che sia stata scartata per il ruolo di Julia Roberts in Pretty Woman, prima dell'esplosione anche come icona di stile con Sex and the City. Sposata con il collega Matthew Broderick, ha avuto storie con Robert Downey Jr. dall'84 al 91 e John Kennedy. Ha un figlio, James, e 2 gemelle nate da una madre con utero in affitto. Paramount Pictures presents Footloose. Restate con noi perché l'amico immaginario torna tra poco. L'amico immaginario. Rieccoci con la nostra amica immaginaria di oggi, la bionda Carrie Bradshaw di Sex and the City. 6 stagioni sulla rete via cavo americana HBO per una serie che ha portato davvero tantissime novità sugli schermi di tutto il mondo, ne parleremo però più avanti. Prima conosciamo le amiche di Carrie, vale a dire Samantha, Charlotte e Miranda, ognuna diversissima dall'altra nel carattere, nello stile di vita e nell'approccio con gli uomini. Sentite, in questa città, se sei una donna di successo, hai 2 scelte. O sbatti la testa al muro cercando di avere un rapporto serio, o dici fottiti e fai sesso esattamente come un uomo. Con un pene artificiale. No, io volevo dire senza provare sentimenti. Samantha Jones rispecchiava New York alla perfezione. Manager nelle pubbliche relazioni, non sposata. Andava a letto con tipi mozzafiato sulla ventina. Così la presenta Carrie e c'è poco da aggiungere. La bionda Samantha è la meno giovane delle 4 amiche e la più disincantata. Le donne, dice, sono sempre sole e devono affrontare la vita con una bella armatura. Nessun coinvolgimento con gli uomini. Samantha sembra più innamorata del sesso che dell'altro sesso. È una seduttrice che non risparmia particolari piccanti e tecnici delle sue avventure. Anche il cancro al seno e la perdita dei capelli per questa lottatrice sono l'occasione per presentarsi con un nuovo look. In fondo, è una donna fragile, con una corazza. Alla fine anche lei trova un vero amore, Smith, cameriere giovane e molto prestante, che lei aiuterà a diventare attore. Andranno a Los Angeles insieme. La interpreta Kim Cattrall. Mi dispiace, ma è vero. Esco con uomini da quando avevo 15 anni, sono esausta, dov'è lui? Chi? Il principe azzurro? Quello si incontra solo nelle favole. Ho male ai capelli. Charlotte, tesoro, non pensi che forse siamo noi i principi azzurri? E che siamo noi che dobbiamo salvarci da sole? È così deprimente. La Pollyanna di Park Avenue, o se volete la Cenerentola. La bruna Charlotte York è la romantica del gruppo, ottimista, perfettina e amante delle tradizioni. Crede nell'amore e nel principe azzurro. Pensa di averlo trovato quando sposa il cardiologo Trey McDougall. Per lui lascia il suo lavoro di gallerista, ma non durerà. Lui non è perfetto. Con il divorzio Charlotte otterrà l'appartamento di Park Avenue e troverà un nuovo marito, l'avvocato Harry Goldenblatt, ebreo, non certo bellissimo, ma ideale per lei. Adotteranno una bambina e dopo non pochi tentativi ne avranno un'altra. La interpreta Christine Davis. La rossa Miranda Hobbs è il prototipo della donna in carriera, oltre a essere la più intima fra le amiche di Carrie, la sua confidente più schietta. Laureata ad Harvard, è socia dello studio di avvocati in cui lavora. Gli uomini sembrano essere spaventati dal suo successo e lei, dopo molte delusioni, sembra affrontare in modo cinico il rapporto con l'altro sesso. vive da sola con la gatta e la fidata Colf, Magda. In realtà è più vulnerabile che cinica e pian piano si aprirà quando conoscerà il barista Steve. Ciao, sono innamorata di Steve. Tieni, reggilo. Oh, ma che notizia, non posso crederci. Ieri sera eravamo in sala da pranzo e stavamo ridendo. Poi tutto a un tratto lo guardo attentamente e mi rendo conto che ci apparteniamo a vicenda. Miranda. Già. Così ci litigo e lo butto fuori dall'appartamento. Bella mossa. I due si prenderanno e si lasceranno e avranno insieme un bambino, Brady. Solo dopo si sposeranno, rigorosamente senza abito bianco. Per la famiglia lascerà l'Upper West Side e si trasferirà a Brooklyn. La interpreta Cynthia Nixon. Torniamo per un attimo alla sola protagonista, Kerry. Un supplemento di descrizione l'abbiamo chiesto a Paola Jacobi di Vanity Fair. Con lei più avanti nella trasmissione parleremo anche di Sex and the City in relazione alla moda e alle tendenze. Sentiamo Paola Jacobi. Ha la caratteristica intanto di una donna molto, vabbè, molto simpatica, quindi certo che vorrei averla come amica. È simpatica, un guardaroba favoloso. Magari mi presta delle cose, fa un mestiere molto cool, conosce la gente giusta, insomma così. E in più c'ha qualcosa di umano che la rende fragile, debole, perché è una nevrotica, perché fuma come una pazza, perché comunque vive da sola, incartata in quella sua solitudine, e la sua grande debolezza è che non, alla fine una che ha paura dell'amore, cioè lo cerca, però allo stesso tempo ne ha paura. Il grande tema, diciamo, un tema narrativo di Kerry è un po' questo qua. C'è di sicuro una quinta amica, un quinto elemento del gruppo, non una persona fisica, ma un luogo. Quella parola, City, nel titolo che indica New York, meglio ancora il distretto di Manhattan. Tutto o quasi accade lì, una cornice che è però qualcosa di più di questo, un elemento che dà un senso tutto particolare agli avvenimenti, che non solo inquadra, ma interagisce davvero con Kerry e le sue amiche. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. Manhattan è nel cuore di Kerry e delle ragazze, anzi, è la quinta ragazza del gruppo. Tour guidati la mostrano ai fan partendo di solito dalla casa di Kerry, al numero 66 della Perry Street, nel Greenwich Village. Ogni amica un quartiere, anche a rispecchiare la personalità e l'evoluzione di ognuna. Upper East Side, cioè Park Avenue, per Charlotte. L'intellettuale West Side per Miranda, che per amore andrà a Brooklyn. Meatpacking District, all'inseguimento del nuovo centro, per Samantha. Ci sono i classici Tiffany, l'Hotel Plaza e Columbus Circle, dove Aiden chiede a Kerry di sposarlo. E poi ci sono i miti creati dalla serie, miti profani, visto che per lo più sono negozi e ristoranti. Per le scarpe, Manolo Blahnik, al 31 West della 54esima Street, e poi Jimmy Choo, al numero 645 della Quinta Avenue nella Olympic Tower. Per un dolcetto, Magnola Bakery, al 401 di Bleecker Street. A cena invece si va al Cantinori, sempre nel Village, dove Kerry voleva festeggiare il suo 35esimo compleanno, ma si ritroverà sola. E ancora The Boathouse Restaurant and the Ladies Pavilion in Central Park. Scouts, al numero 174 di Grand Street, è invece il bar dove lavora Steve. Pity's Tavern, nel Flatiron District, il locale invece dove Miranda gli chiede di sposarla. La biblioteca pubblica sulla Quinta Strada, teatro del matrimonio mancato con Big. Fra i musei, il MoMA e il Guggenheim, dove Kerry decide di fidanzarsi con la città. Sesso e non amore? The Pleasure Chest al 156 della 7th Avenue South, nel Greenwich Village, dove Charlotte compra il coniglietto vibratore. D'altronde, come ci spiega la protagonista, New York è l'immagine del sesso. C'è chi lo fa, chi cerca di farlo, chi non riesce a farlo. Post scriptum, se volete vestire come le ragazze, Patricia's Field Store, al 302 Bowery, il negozio della costume designer della serie. In questa New York così bella, glamour, affascinante con ogni condizione climatica, nasce e vive la vicenda amorosa di Kerry e Mr. Big, vero nome John, ma lo scopriremo solo all'ultimo istante dell'ultima puntata della serie. È l'amore sognato, inseguito e fortemente voluto da Kerry, un amore non facile, anzi difficile, perché lui non è in grado di rispondere alle esigenze emotive della nostra amica immaginaria. Si prendono e si lasciano molte volte nel corso delle 6 stagioni. E si può sapere chi è lui? Si chiama Alexandre Petrovsky. Ti trasferisci in Francia con un cosacco? Ah, ma dai, è solo una battuta, Kerry. Tu questo lo fai ogni volta. Ogni volta. Cos'è? Hai una specie di radar. Kerry potrebbe essere felice, ora vado lì e le mando tutto in merda. Cosa? No, no, senti, sono venuto per dirti una cosa. Ho fatto uno sbaglio. Tu e io... Tu e io? Niente! Non puoi farmi un'altra volta questo scherzo, non puoi trattarmi così. Kerry, ascolta, è tutto diverso. Oh, non è mai diverso, sono 6 anni. Non è mai stato diverso. Ma stavolta basta, sono stanca. Non chiamarmi mai più. Dimentica il mio numero, anzi, dimentica soprattutto il mio nome. E non passare più per questa strada. Perché sappi che io non vivo più qui ormai. Two drifters off to see the world. A conclusione di tutto, l'amore sarà coronato non nelle 6 stagioni della serie, bensì nel primo film tratto da Sex and the City, ne parleremo più avanti, e la favola così potrà avere il suo lieto fine. Alla fine, Kerry Bradshaw ha sposato John James Preston in un abito non griffato. Lo voglio. Per i poteri conferitimi dallo Stato di New York, io ora vi dichiaro marito e moglie. Può baciare la sposa. Eternamente tuo, eternamente mia, eternamente nostra. Waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. L'amico immaginario torna tra poco. L'amico immaginario. Eccoci di nuovo assieme a Kerry Bradshaw, la nostra amica immaginaria di oggi. Nei 6 anni in cui è andata in onda la serie Sex and the City ha superato i limiti di una serie di successo, ha segnato in qualche modo il costume, le abitudini, l'immaginario collettivo, in particolare con un aspetto, l'attenzione, fortissima attenzione alla moda e alle griffe. Filosofia di Kerry tratta dall'inizio del primo dei 2 film realizzati sulla serie. Anno dopo anno, donne sulla ventina vengono a New York City in cerca delle 2G. Griff e grande amore. A New York, come avete sentito, si va a 20 anni per trovare le 2G, il grande amore e le griff. E se l'amore della vita è uno solo, le firme che ci si possono mettere addosso sono tante. Partiamo dai piedi, perché a suggellare la proposta di matrimonio di Big a Kerry c'è, non a caso, una scarpa. Manolo Blahnik ha fatto una fortuna grazie alla serie, e lo stesso si può dire per Jimmy Choo, entrambi nel ramo calzature. Apparire in Sex and the City ha significato vendere e diventare status symbol per chi non lo fosse stato ancora, o semplicemente rafforzare la propria posizione quando il nome è già blasonato, come nel caso di Prada, Vuitton, Chanel o Gucci. Dalle scarpe alle borse, passando per gli abiti, perché Kerry, come Audrey Hepburn, è tipo da grandi armadi. Le ragazze, letteralmente, investono in vestiti, cappelli e accessori, ognuna con il suo stile. Miranda si sposa in nero, Charlotte è sempre classica e un po' pastello, Samantha sempre colorata. E Kerry? Kerry osa, scegliendo vestiti sempre particolari e originali. Il prêt-à-porter meno portabile ma più accattivante per i fan compratori. Gioielli? Non molti, ma la collanina con il nome Kerry è diventato un must. Molte griffe e molti accessori citati sono diventati veri e propri simboli di un modo di pensare, di vivere. Ne parliamo con Paola Jacobbi di Vanity Fair. Allora, i tacchi a spillo, insomma, le scarpe di soprattutto di Kerry, che non si muoveva mai senza tacchi a spillo, firmatissimi. C'è tutta una puntata sulle sue scarpe di Manolo Blahnik, c'è una puntata dove protagonista una baguette di Fendi, che infatti è diventata una borsa, cioè era già un classico, ma quella cosa lì era un po' consacrata. E poi sicuramente quello stile un po' bonbon di Charlotte è abbastanza significativo per caratterizzare il personaggio. E poi che altro? Poi ovviamente questi outfit sempre un po' over the top, iper sexy di Samantha. Oh, mi scusi tanto, so che sembra ridicolo, ma mi sono persa. Puoi indicarmi da che parte è la West Broadway? Dammi la borsa. Come? La borsa. Veramente è una baguette. Beh, dammela. Non ci potevo credere. 15 anni passati a New York e proprio quando la città diventava più sicura mi derubavano. Ma è uno scherzo. Dammi l'orologio e l'anello. Oh, Gesù santo. È stretto. Sbrigati. Ok. Dammi anche le Manolo Blahnik. Cosa? No! Dammi quelle fottute Blahnik. Questi tizi non vogliono solo soldi. Si intendono anche di moda. La prego, sono le mie scarpe preferite. È stato un affare e le ho prese a prezzo di costo a una vendita di campionario. Grazie. Vi prego, aiutatemi! Che qualcuno mi aiuti! Mi ha rubato i sandali di Manolo Blahnik! Per favore, aiutatemi! When you can wear what you feel, what do you want? Ma l'effetto della serie su tante donne non è stato semplicemente quello di rendere trendy alcuni accessori e alcune griff. Se un'altra serie TV, Friends, era riuscita a rendere di culto una pettinatura, cioè quella di Jennifer Aniston nei panni di Rachel, su cosa ha influito Sex and the City? Sentiamo ancora Paola Jacobbi. Guarda, più che una cosa immediatamente riconoscibile come la pettinatura di Jennifer Aniston in Friends, io credo che, adesso uso un verbo che detesto, ma Sex and the City ha sdoganato la frivolezza. Tante donne che, diciamo, di scarpe, vestiti, borsette, eccetera, tendevano a parlare un po', diciamo, in segreto, a non rivendicare questo piacere, perché magari appunto un amministratore delegato, e allora, e Sex and the City ha avuto questa cosa qui, secondo me, di impatto sul costume, che improvvisamente è diventato abbastanza legittimo parlare seriamente della propria passione su scarpe, borse, vestiti, e che quella cosa lì non è poi del tutto secondaria. Questa caratteristica, la rivendicazione della frivolezza, ha fatto di Sex and the City una serie soprattutto per donne? Secondo me no, io credo che un sacco di uomini si sono divertiti a guardare Sex and the City, ovviamente meno interessati alla parte fashion e alla parte city e molto più interessati alla parte sex, perché comunque la cosa veramente nuova era il fatto che era un prodotto televisivo, non a caso non andava su un network ma su una rete via cavo, su HBO, e Comunque era, gli argomenti erano molto sexy e a volte non solo perché parlavano di sesso, ma erano sexy in senso generale. E comunque c'erano anche dei momenti di scene, insomma, io mi ricordo che insomma si sono viste cose che in televisione non si erano mai viste prima. D'accordo. Cosa può essere successo di così grave? Ho trovato un pelo grigio. Nella pasta? Nel mio pelo. Questo qui. E ora come faccio? È un disastro? Nessun disastro, fa parte del processo di invecchiamento che tu sai accettare. La vista che invecchia è una cosa, ma il pelo... guai se diventa vecchio. Cosa puoi consigliarmi? Smith sa benissimo che tu hai qualche anno più di lui. Se invecchio io, con me invecchia anche questo. Non è ammissibile una topa brizzolata. No. Ti prego, siamo alla festa di compleanno di un bambino. Stavo per strapparmelo, ma se l'avessi fatto ne sarebbero usciti 6 nuovi. Dicono che succede così. Ciao. Ferma. Per favore. Non ti ho detto ancora tutto. C'è di peggio? Me lo sono tinto. Ho sbagliato il tempo di posa e ho sbagliato colore. Capito? Ti do 10 secondi e poi io me ne vado. 10, 9. È rosso! E quando Smith lo vedrà dovrò spiegargli perché è rosso. 5, 4. Ma non capisci 3, che catastrofe. 2, 1. Sembra la toppa di un orango. Mi correggo, c'è qualcosa di più terrificante di un clown. E allora ci chiediamo, è questa la ragione del successo, cioè la capacità di parlare alle donne ma di intrigare anche gli uomini? Ne parliamo con Matteo Bottino, giornalista di Film TV. Matteo, è questo il motivo di tanto successo? Sì, la chiave del successo è stata quella, cioè all'inizio, ed era anche il tema della puntata pilota, quello che si diceva era: ah, per la prima volta le donne parlano e fanno sesso come gli uomini. E ciò accade in TV, cioè superando anche il linguaggio cinematografico in quello. Poi ovviamente questo è stato uno slogan vero in parte, nel senso che ovviamente le storie poi evolvono e non è così riduttivo né per le donne né per gli uomini. Ovviamente poi il ritratto che esce di questo gruppo di donne e degli uomini che loro frequentano è molto pieno di sfumature, sfaccettature, però effettivamente per la prima volta un gruppo di amiche chiacchiera e fa liberamente sesso, scendendo nei particolari, nei dettagli, per cui quello che sicuramente ha creato immedesimazione è che la chiacchiera da bar delle ragazze, delle donne, la si poteva vedere anche in TV, la scheggia, il frammento di verità che veniva offerto ai telespettatori e che ha catturato poi col passare delle puntate anche il pubblico maschile, che era interessato e intrigato da questo aspetto. Affrontiamo un tema spiacevole per tanti fan della serie, vale a dire lo sbarco al cinema di Carrie e delle sue amiche. Due film con buoni risultati di botteghino, ma da dimenticare assolutamente per chi ha tanto amato le avventure televisive della nostra amica immaginaria. Matteo Bottino, di Film TV, parlaci di queste due pellicole. Ma guarda, appunto, io capisco probabilmente da parte dei produttori e delle attrici portare questa esperienza sul grande schermo sicuramente fa gola, e l'hanno dimostrato gli incassi. Però, come quasi sempre capita quando una serie abbandona la TV, lo schermo televisivo, per arrivare al cinema, fallisce, perché palesemente le storie erano concluse con la sesta, non c'era nessun bisogno di proseguirle, quindi sono state tirate per i capelli. Tra l'altro entrambi i film hanno una durata che supera le 2 ore, con appunto storie che erano spesso inutili. Il secondo film in particolare sembra quasi un cinepanettone in versione Sex and the City, perché loro vanno in Medio Oriente, se non sbaglio ad Abu Dhabi, e quindi sembra veramente Sex and the City ad Abu Dhabi, per cui non ci sono storie interessanti, i personaggi vengono ridotti a macchietta, cosa che non erano nella serie. Siamo veramente in area cinepanettone di lusso, perché comunque fatta dagli americani, con una grande produzione, però scadente. Grazie a Dio il secondo, speriamo, così pare, sarà l'ultimo. Non vogliamo vederne un terzo, non vogliamo vederle in casa di riposo, vogliamo avere il ricordo di loro felici a Manhattan con i loro Cosmopolitan in mano e una vita felice anche da un punto di vista sentimentale. Restate con noi perché l'amico immaginario torna tra poco. L'amico immaginario. Finora abbiamo parlato di tutte le cose che ci hanno fatto amare Carrie e Sex and the City, ma la nostra amica non possiamo nascondere le critiche. E allora microfono a Tommaso Labranca, scrittore e autore televisivo. Appunto, qualche critica. Non è una visione femminile e tantomeno è una visione femminista, perché non sono le donne liberate che fanno sesso e vivono da sole e scelgono uomini diversi ogni settimana, assolutamente. Anzi, le femministe penso sarebbero contro questo telefilm, questa serial, perché non c'è l'impegno. Le quattro non sono mai impegnate, sono frivole, curano molto il loro aspetto, vivono soltanto per le parti più frivole, appunto borsette, scarpe. Le scarpe sono fondamentali in tutta la serie di telefilm. Quindi non c'è nulla di tutte le lotte femministe che furono fatte soprattutto in America, poi arrivarono qui da noi negli anni 70. Gli anni 70 sono completamente dimenticati in quella serie, ci sono soltanto gli anni 90. Ecco perché, viste oggi, risultano anche un po' scadute. Quando le rivedo oggi mi rendo conto che sono un po' passate. Sono cose che abbiamo già superato, che abbiamo già vissuto, che non ci hanno dato soddisfazione, perché insomma vivere così, andando ogni sera in un locale diverso perché quello che abbiamo visto ieri sera è già passato di moda, cambiando partner una volta alla settimana, insomma non ha dato soddisfazione. Poteva essere qualcosa di libertario, però alla fine non è stato quello che cercavamo dalla vita. Un altro punto debole della serie forse è la rappresentazione degli uomini. Non lo diciamo per difesa di categoria, ma che si tratti di una scelta o meno, gli uomini di Sex and the City, pur rimanendo uno degli argomenti principali di Carrie, Charlotte, Samantha e Miranda, sono piuttosto bidimensionali. Sentiamo ancora Tommaso Labranca. Esatto, hanno fatto un catalogo, il contrario del catalogo di Don Giovanni in Mozart, e loro ne hanno fatto un catalogo diviso in quattro. Ci sono tutti gli stereotipi maschili. Il peggiore è l'amico gay, perché è veramente stereotipato, è quasi fastidioso. Il personaggio è bruttino che però sbava soltanto per questi belloni irraggiungibili. Cioè, lo hanno disegnato in maniera frivola e irreale anche alla fine. E invece tutti gli altri, sì, ci sono, c'è l'impotente, c'è appunto il... Fra l'altro poi l'impotente è buffo perché è lo stesso attore di Twin Peaks, per cui hai un momento così, dici, mi si sono confusi i DVD insieme, cos'è successo? In un'altra puntata poi c'è il pazzo che è interpretato dall'attore di X-Files, per esempio, e qui anche lì c'è un momento così un po' strano. E hai lo stesso Mr. Big, è uno stereotipo, è il gigione, l'uomo di potere sul lavoro che però nella vita quotidiana non ha saputo diventare adulto, è un adolescente che sogna di uscire sempre con i suoi amici di infanzia, per cui loro diventano stereotipi alla fine del serial, le donne, gli uomini invece lo sono sin dall'inizio. E agli amici, oltre alle critiche, ci si permette anche qualche sfottò. A prendere in giro Sex and the City con tutte le sue caratteristiche, dal sesso come argomento principe allo shopping selvaggio, ci hanno pensato qualche anno fa due donne della TV italiana e del cinema italiano, Paola Cortellesi e Claudia Gerini, ecco un brano di Sex and the City all'italiana. Oddio, oggi c'ho i piedi, so due maridozzi. No, non me lo dico a me, guarda. Mi nominai maridozzi che qui a Sex and the City fanno mangiare solo insalata. Senti, com'è nata oggi? Nada, ma fanno fatto ore in giro per negozi. Oh, Madonna, che a comprare vestiti, guarda, ma poi c'è una confusione in testa. Mi pare che mi hanno fatto l'elettroshopping. Mamma mia! Oggi ho comprato un paio di scarpe, la commessa mi ha rintronata. Sono chic, vado a pagare su 3.000 euro, hai capito? Ah. Altro che chic, sono ancora sotto shock. Non so, a te credo, 3.000 euro. 3.000 euro, ma come ha fatta? Oh, prendi 800 euro al mese, ma cara. Che ne so, quelli sono i sceneggiatori, non sanno fare i calcoli. Hanno segnato i tre porti esami di maturità, ci sarà un motivo. Oh, peggio del fio dei boss. Poi c'hanno una fantasia sti sceneggiatori, guardi. Sta serie stanno sempre a parlare di sesso. È vero, a parlare solo, ma magari a parlare, magari fosse solo di parlare. Sto più a letto io che impaziente il dottor House. Sempre a letto? Sempre è a vero? Letto. Ci poteva andare peggio però, eh? Come peggio? La bionda sì, perché la bionda e beautiful le hanno mandato a letto col padre, col figlio. Col cognato, col genero. Pure col genero? Sì. Dice che il sogno suo era farsi una famiglia. A me mi pare che sia il fan. Mi pare che sia il fan. È vero! Yeah! Abbiamo sentito finora esperti e giornalisti, ma ora la parola va alla gente per strada con il nostro abituale Vox Populi di Chiara Pizzimenti, ma è come in questo caso uomini contro donne. Ho trovato abbastanza noioso perché un po' i personaggi si comportano sempre allo stesso modo e quindi anche le storie un po' ne risentono, per cui per me è un po' palloso, insomma. È una cosa da donne? Credo di sì, credo che il pubblico maschile che lo segue probabilmente sia abbastanza limitato. No, la trovo sicuramente femminile, per le poche volte che l'ho vista mi è sembrata adatta a un pubblico di donne. Le poche volte che l'hai vista, come ti sono sembrate le ragazze di Sex and the City? Mi sono parse la perfetta caricatura della donna avvenente in carriera americana. L'ho visto costretto da mia moglie, un po' frivolo e poco realistico. Perché non mi interessa il genere? Beh, il personaggio preferito ovviamente è chiaramente Carrie, un po' per la leggerezza del suo carattere, dello spirito, delle storie che vive sempre da un po' da giovane, che è quello che anche ci piace di Sex and the City, la leggerezza che trasmette, e per lo stile in fatto di moda, che è quello tra tutte che mi piace di più. Carrie perché ci si identifica nel suo essere ironica, una donna sempre che guarda avanti, però allo stesso tempo con le sue debolezze, tutti questi amori sfortunati, la ricerca del grande amore che alla fine però arriva. A me piace la classe che hanno queste donne. Va bene per vivere un momento di frivolità. Perché lo guardavi? Lo guardavo sinceramente per i vestiti, nel senso sono un'appassionata di moda in una maniera atroce e quindi sì, no, poi mi piace proprio come programma, anche quello che dicono, il rapporto di amicizia tra le quattro e tutto, sì. Una delle quattro la preferisci o... Samantha. Perché Samantha? Niente. Mi sa di più verso la generazione di adesso, nel senso più amichevole, più tutto. Anche se è più vecchia alla fine. Sì, quello sì. Secondo te agli uomini piace Sex and the City? Cosa ne pensano? Sì, nel senso sì, soprattutto ci sono certe scene che agli uomini piacciono molto, ok? No, però sì, alla fine è un telefilm, ma anche il film, nel senso, a portata di tutti, quindi. Siamo quasi alla fine. Misuriamo, prima di chiudere, la popolarità di Sex and the City con il nostro strumento preferito, internet. Appena si digita Sex su Google, la compilazione automatica aggiunge And the City. I risultati sono all'incirca circa 482 milioni. C'è la pagina ufficiale del sito della HBO, per vedere i titoli però bisogna essere negli Stati Uniti, e quella della 7, che per prima ha trasmesso la serie in Italia. Se ci si trova a New York e si è fan della serie, basta digitare www.screentours.com, sito che propone itinerari nei luoghi simbolo, ovviamente a Manhattan, del telefilm. Ci sono poi le schede sulla serie e sui due film sui siti specializzati come IMDb, MyMovies e simili. Su Facebook il profilo di Sex and the City registra quasi 13 milioni di mi piace ed è facile trovare traccia di Carrie e delle altre su Wikiquote e Twitter @satquotes, che raccolgono le perle di saggezza e le citazioni da tutte le serie. Se masticate l'inglese, su BuzzFeed.com trovate 28 possibili storie se Sex and the City fosse ancora in TV, una sorta di futuro possibile. Wombi.com propone un gioco online. Essendo ispirato alla serie, non poteva che far scegliere vestiti. Vi lasciamo con l'ultima riflessione, con voce fuori campo, di Carrie Bradshaw, facendo finta che i due film non siano mai arrivati al cinema. L'ultima riflessione dell'ultima puntata dell'ultima serie di Sex and the City, la sesta, parla di amore e di amicizia. Al prossimo Amico Immaginario. Più tardi quel giorno pensai a lungo alle relazioni. Ci sono quelle che offrono sensazioni nuove ed esotiche, quelle che sono vecchie e familiari, quelle che sollevano un sacco di domande, quelle che ti portano in posti inaspettati, quelle che ti portano lontano dal punto di partenza e quelle che ti riportano indietro. Ma la relazione più importante, difficile ed emozionante, è quella che si ha con se stessi. E se trovi qualcuno che ti ama e che ami... Ciao! Come va, piccola? Com'è Napa? La casa è già in vendita. Attenzione, New York! Sto arrivando! Beh, allora, è davvero fantastico.